Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh. Si è lanciato in volo da 4200 metri di altezza e l'impresa sembra ancora più straordinaria dato che il protagonista è un mago. Ma non è un mago qualunque, ma è il mitico mago Zurlì, che è in linea con noi. Buongiorno a Cino Tortorella, benvenuto. Buongiorno, come sta? Io sto benone, ma lei? L'ho vista il video, eh? È straordinario. Ho visto il video su Corriere.it e mi chiedevo se lanciarsi dal paracadute a 80 anni suonati sia più una questione di coraggio o di fisico. Boh. Ne ho avuto coraggio, il fisico regge abbastanza bene, ma non è stata una questione di coraggio. Mi sono trovato lì con mia figlia che vive più in aria che sulla terra e quando può corre a Ravenna, lì dove c'è un gruppo di paracadutisti che si chiamano Pull Out e niente, sono salito sull'aereo, mi sono trovato a 4200 metri e poi mi hanno detto di fare un piccolo salto e l'ho fatto. E non ha avuto neanche un piccolo ripensamento, tanto che era su, per dire a Chiara, sua figlia, senti Chiara, facciamo una prossima volta, io ti guardo. La stai guardando? No, dicevo a lei, se per caso non ha avuto un piccolo ripensamento e... No, era più emozionata... Chiara, mia figlia, davvero, io ho provato soltanto una gioia straordinaria, davvero bellissimo. E vorrei rifarlo perché così so ancora meglio cosa si deve fare venendo giù, ecco. Che cosa guardare? Deve guardare dove? Senta, signor Tortorella, ci sono tanti anziani. Senta, io mi chiamo Cino. Cino. Signor Tortorella, detto da una bella... signorina, non mi piace. Va bene, bene, bene, allora mi allargo. Cino, senti, ci sono tante persone che sono poco attive, si sentono tutto il peso degli anni e tendono a chiudersi, a non frequentare più persone, in qualche modo si lasciano un po' schiacciare dal peso degli anni. Io penso che un'impresa come la tua sia anche un messaggio, o no? Io gli anni non li conto più, ormai conto i mesi, infatti quel giorno era il 27, io sono nato di 27, il 27 giugno, e quel giorno compivo 1033 mesi esattamente, sì. Ed è stato un bel complimese. Un bel complimese, senti Cino, programmi per le tue vacanze, quali altre avventure ti attendono? Non sto facendo vacanze perché sono qui in questo momento in Puglia, sto lavorando tra virgolette, ma stiamo facendo una cosa molto importante per aiutare i bambini obesi, perché noi in Italia siamo al primo posto per obesità infantile, al primo posto in Europa, e allora... stiamo studiando la possibilità di superare questa cosa che è molto grave per i nostri bambini. E stiamo pensando a un docufilm perché la cosa è facilmente superabile ponendo attenzione a quelle che io chiamo le tre A: amore da parte delle famiglie, alimentazione corretta e attività fisica. È quello che le mamme, i genitori dovrebbero fare attenzione a Questa è la formula, la formula per aiutare le famiglie a tenere sotto controllo il peso dei loro bambini, che è un investimento per la salute. Cino, allora io ti aspetto qua perché noi quotidianamente ci occupiamo di salute, quindi sposiamo questa iniziativa parlando alle mamme e approfittando anche del tuo aiuto. Grazie a Cino Tortorella per essere stato con noi. Un abbraccio. Grazie, grazie. Grazie. E provate anche voi quell'emozione. Ravenna, paracadutisti pull out e avrete una bella sorpresa. Insomma, ci lanciamo. Grazie, grazie a Cino, un abbraccio. Non le immaginate neanche le cose che desidero fare da tanto, senza nessun controllo. Come tagliarsi i capelli o che so io, gustare gelato. Sì, andare in giro e poi sedersi a un caffè, guardare le vetrine dei negozi. Mischiarsi alla gente, divertirsi, come fanno tutti. Non è troppo quello che chiedo, vero? No, al contrario. State a sentire. Prendetevi questo svago con me, oggi stesso. Ma non andate a lavorare? Lavorare? No, oggi faccio vacanza. Le vacanze ci aspettano e questo potrebbe essere il periodo ideale per misurarci in qualcosa di nuovo o di buono o di salutare. Insomma, potremmo ad esempio pensare di occuparci un po' della nostra forma fisica, di lanciarci in un nuovo progetto, di coltivare qualche hobby, di dedicarci alla lettura, all'ascolto della musica. Potremmo decidere di imparare qualcosa di nuovo, una lingua, uno sport. Voi che programmi avete? Vi dedicherete più all'azione come il nostro Cino Tortorella? Vi lancerete in qualche cosa di nuovo, di appassionante, una cosa che non avete mai provato, o alla meditazione invece intesa come piacere di coltivare i propri interessi culturali? Salvatore Corruba proprio nei giorni scorsi suggeriva di ritornare, di riprendere un classico e di rileggerlo. 800 24 00 24 per i vostri programmi di lancio. Due dimensioni, quella culturale e quella un pochino più invece fisica, se vogliamo, che si nutrono reciprocamente. Allora qua in studio con me ho due amici che ci aiuteranno, si confronteranno con noi, magari daranno dei suggerimenti. È tornato a grande richiesta a trovarci il dottor Franco Confalonieri, medico sportivo. Buongiorno. Buongiorno, ben ritrovati tutti con grande piacere. E qui in studio con me ho Shell Shapiro, il mio amico Shell. Perché non hai detto che è tornato anche Shell? Perché tu vieni e vai, Ah, lui torna. ok. È tornato. Allora, adesso rifaccio. Allora. Io manco da tanto tempo, è un po' per quello. E signori e signori, amiche e amici, finalmente è tornato a trovarci il mio amico Shell. Buongiorno a tutti, ciao amico. Allora, voi che farete? Abbiamo sentito 86 anni e non sentirli? Il grande Cino Tortorella, il mitico mago Zurlì, che si è lanciato in questa impresa che ha dello straordinario, perché anche solo avere la voglia di salire in alto, di mettersi in gioco, di affidarsi alla figlia, di fare questa. Voi che cosa farete? Che cosa ci stupirete con effetti speciali? Dottor Confalonieri, parto da lei. Sì, due cose rapidissime. Io per la prima volta avrò il tempo quest'estate di dedicarmi di nuovo al mio fisico e quindi sarà un'estate di allenamenti in cui applicherò le regole che tante volte vi ho dato e che magari rivedremo un po' insieme più tardi. E volevo riprendere un attimo anche la suggestione di Cino Tortorella perché era molto interessante. Aggiungerei alle sue 3 A altre 2 A. Sarebbe veramente importante se tutti noi, io per primo, genitori, soprattutto in periodo di vacanze, sostituissimo alla A di acquisto la A di attenzione, Bello! così restiamo nel tema delle A, perché troppo spesso nella mia esperienza questi problemi di sovrappeso, se non di obesità, sono legati proprio al fatto che noi magari preferiamo restare lì, farci la nostra partita a carte, leggere il nostro libro, fare le nostre cose. Arriva il bambino e ci dice: compro il gelato, compro la merendina, compro la brioche, compro la Vai, focaccia, vai, ecco. vai. E questo predispone al sovrappeso e all'obesità. Un po' più di attenzione, un po' meno di acquisto. Restiamo nel tema delle A. È una prima suggestione estremamente interessante per le vacanze che mi viene da questa splendida iniziativa. Rispetto a quello che poi lui ha fatto, Anche questa è un'impresa, per i genitori, per fare attenzione ai loro figli. Sì. Non è che bisogna sia necessario lanciarsi dal paracadute, ecco. Sono le piccole imprese quotidiane che cambiano la vita, dottore. Esatto, l'impresa del mago Zurlì è davvero al limite, nel senso che bisogna arrivare con due cose che spessissimo mancano negli anziani che io incontro nel mio lavoro: la forma fisica, intanto, perché comunque devi arrivare a una forma accettabile, perché sennò è... E la voglia di emozionarsi, di provare cose nuove. L'emozione. Ancora. E spesso non abbiamo più voglia di emozionarci a 20 anni, figuriamoci a più di 80. No, c'è, secondo me è verissimo questa cosa. Io trovo che certe volte la paura di emozionarsi. Cioè perché si insegna che bisogna avere paura delle emozioni, infatti ci chiudiamo sempre di più. Sì. E l'emozione è una forma di allenamento mentale anche, cioè è un'attività fisica, secondo me, l'emozione, cioè ti smuove delle cose, ti fa battere più forte il cuore, ti fa arrossire, cioè ha delle reazioni proprio fisiche. Che sono, adesso questa è un'emozione, perché chi chiamerà in diretta Shel Shapiro quando lui dovrebbe essere tutto per me? Chi è? Porca miseria, non so, non rispondo neanche. No, bravo. Io trovo che questa cosa delle emozioni di Imago Zurlì sia fantastico. Cioè, mi piace da bestia che è un uomo di 86 anni. Mi ha dato una carica straordinaria. Pronti per un nuovo lancio. Io sto sotto per aspettarlo, lo prendo in braccio quando a terra, perché mi sembra troppo forte, hai capito? 800 24 00 24, per raccontarci dove vi lancerete quest'estate, in quale progetto, in quale avventura, che desiderio, che obiettivi avete voglia di realizzare. Da Facebook mi arriva un post di Maria che mi scrive: nuotare, nuotare, nuotare, sentire il profumo del mare, leggere, stare con i miei figli. Ci aiuta anche Sonia, le mie amiche di Facebook. Leggere, dormita libera, camminare, nuotare, contemplare il mare e silenzio. Vado in vacanza con Sonia. Dottor Confalonieri. Beh, è bello, nel senso che i nostri ascoltatori sono avanti, lo sappiamo, ma d'altra parte sono anni che li educhi, Nicoletta. No, io per carità, sono loro che educano. Però, ecco, hanno centrato due aspetti. Nuotare è una delle attività ovviamente meno traumatiche, più salutari, migliori. Ricordiamoci di farlo sempre, sembra un'idiozia, ma trasversalmente alla riva, perché non possiamo sapere se di colpo il nostro fisico ci può abbandonare. Quindi non nuotiamo dalla riva verso fuori, ma raggiungiamo quel minimo che ci consente di nuotare in acque belle, pulite. E se uno vuole arrivare in America, come fa? Chiede a Cino Tortorella. E camminare, e poi, ecco, dormire liberamente. Dormire liberamente non è una stupidaggine, significa imparare, soprattutto d'estate che possiamo, ad ascoltare il nostro corpo, perché il nostro corpo durante l'anno lo abbandoniamo, abbiamo la nostra agenda, e quella detta i ritmi. Se d'estate i ritmi, vedi, li è diventato detta... anche saggio da quando non viene più a essere benessere, è diventato un medico saggio. Se d'estate i ritmi li detta il nostro corpo, ho voglia di dormire, non importa che ora è, cosa sto facendo, dove sono, mi metto lì e dormo, ascolto il mio corpo, che poi magari qualche ora dopo mi chiederà di camminare, mi chiederà di nuotare, o mi chiederà di contemplare il mare, o mi chiederà di scatenarmi in un ballo, anche perché poi mi devo anche divertire d'estate, insomma. Allora, intanto vi leggo i messaggi di Francesco, di Carlo e di Tina. Francesco mi scrive: consiglio relax totale. Si lavora già troppo, no movimento durante le ferie. Questo ci scrive Francesco. Tu invece non avrai grande relax quest'estate. Ma io avrò relax in quanto condivido questo pensiero qui, o diciamo lo utilizzo per parlare di quello che faccio io quest'estate, perché io, partendo lunedì prossimo, organizzo questa rassegna di teatro contemporanea nell'entroterra della Liguria, che si chiama Stars a Balestrino. Ed è come dice lui, Stars. Stars. È l'unica parola inglese che ho imparato. È l'unica parola che dico bene, tu volevi dire. E lì io trovo che il teatro, abbiamo anche delle tavole rotonde, abbiamo anche cinema a mezzanotte sotto le stelle, sai, una volta quando si guardava i film all'aria aperta, sì, meraviglioso. Allora, io credo che... E poi se andavi con un fidanzato, poi ti baciava. Ma sì, sotto ma certo, le stelle, certo. E io, noi facciamo ogni sera uno spettacolo teatrale diverso, sia impegnati, ma anche, abbiamo di tutto, ma soprattutto di teatro contemporaneo seria, e secondo me instigare al pensare, a instigare all'emozione, quello che diceva Franco prima, questo è l'importante. Va benissimo camminare, cammino anch'io, non 100 km al giorno, ma ogni due o tre giorni cerco di camminare 5, 6, 7 chilometri con un po' di fatica sotto questo caldo qui, è vero, però io credo che il teatro per esempio può stimolare l'intelletto, io credo che noi abbiamo bisogno di instigare il nostro intelletto visto quello che ci succede intorno in questa società. Quindi azione o meditazione? 800 24 00 24, meditazione intesa come coltivare i propri interessi, scoprirne di nuovi, perché no? Intanto voglio leggervi il messaggio di Carlo da Treviso che mi scrive: la mia estate sarà di esercizio fisico e di contemplazione, quindi 50-50. Vado al mare con mia figlia di 9 mesi. E a proposito di esercizio fisico, dottor Confalonieri, iniziano le vacanze. Puntualmente c'è chi è galvanizzato dall'aria delle vacanze e non resiste alla tentazione di diventare sportivo e si lancia, per l'appunto, senza preparazione, che è il paracadute dello sportivo, in partite di calcetto, di beach volley, in estenuanti corsi sulla battigia, sfida gli amici a tennis, insomma si dà un grande affare con l'obiettivo magari di ritornare in forma, ma lo sappiamo che il rischio è alto, quindi iniziate, pensateci bene, rilassatevi. Quindi torniamo a una di quelle che era le nostre parole d'ordine, la gradualità, cioè ok, l'esercizio fisico, ma non possiamo pensare in un mese di fare quello che non abbiamo fatto tutto l'anno. Quindi sicuramente intanto distinguiamo il gioco dall'esercizio fisico che si fa da soli. Nel senso che se pensiamo di correre, di nuotare, di remare, va bene, cioè lì possiamo partire adagio e poi ogni giorno aumentare un pochino e va bene. L'importante è partire piano, cioè se ci sentiamo in condizione di correre 30 minuti, il primo giorno corriamo 10, un terzo, vabbè, la famosa regola del terzo, sì, così potremmo andare avanti tutta l'estate. Sul gioco, nel gioco c'è il piacere, parlo del tennis, del calcetto, del beach volley, però attenzione, perché poi nel piacere rientra lo spirito agonistico che è fondamentale, che è dentro ciascuno di noi, che è bello tirare fuori, però magari poniamo un minimo di attenzione, cioè la prima volta magari facciamo una partitina breve, poi la seconda volta un po' più lunga, la prima volta magari partiamo in 10, così sono possibili le sostituzioni, la volta successiva ci giochiamo tutta la partita, anche qua è molto importante. Mi è venuta un'idea, dottor Confalonieri, lei ha Facebook, vero? Certo. Lei ha detto che quest'estate la utilizzerà per ritornare, per insomma per dedicarla a me stesso. Ecco, non volevo, però con un po' di attività fisica. Sì. Ecco, perché non ci scrive un po' un suo diario su Facebook, che cosa fa e poi chi si ispira? Così noi la controlliamo da lontano. Hai visto gli amici? E invece accetto la sfida. Dai. Accetto la sfida, la facciamo dal primo di agosto. Dal primo di agosto? Allora, dal primo di agosto posterò regolarmente tutto quello che faccio e quindi come migliorerà la mia forma fisica. Allora, per fortuna, Vanossi già dice: ride. Via, hai appena rovinato l'estate. Per fortuna, la gente che sa non mi vede perché sono in radio e vediamo a fine agosto in che forma mi ritrovo. Accetto questa sfida. Accetta, Laura Vanossi non ci crede, pensa che non lo scriverà mai, ma io gli darò fiducia Sì, eh? Gli diamo fiducia. Ma io non so, non lo conosco, mi sembra... Io me la porterei in vacanza con me, la porterei a Balestrino con me. Perché ma cosa gli fai fare? Piace... A Balestrino ci sono degli attori veri, okay, non ci sono... No, si può anche camminare, ce ne sono, c'è l'entroterra ligure, che Dio, una bellezza. Allora, lì si può, sì, si può camminare, si può andare al mare, si può venire in teatro, si può andare al cinema, e poi si può mangiare bene. Sai che abbiamo aperto con queste Adi del Mago Zurlì, sì, no? E tu mi raccontavi prima di andare in onda che al pomeriggio c'è un attore straordinario che viene dal teatro stabile di Verona, sì, e che fa fare teatro ai bambini. Roberto Petruzzelli fa questo laboratorio con i bambini, gli insegna a fare anche i burattini, gli insegna l'amore per il teatro, che il teatro non lo insegni, puoi instigare l'amore per il teatro. Ma... E questa vedi che è un'avventura anche per i bambini, perché diamo ai nostri figli la possibilità di sperimentare cose nuove. Sì, Franco, dalla provincia di Alessandria, e Mauro, da Lecco. Franco, buongiorno. Pronto, buongiorno a lei e a tutti gli radioascoltatori. Niente, io il mio progetto è quello di riuscire a fare con un fuoristrada il giro delle coste del Mediterraneo, non quest'anno, però piano piano col tempo. Per quanto riguarda l'allenamento, io, pur essendo disabile, mi manca l'arto inferiore sinistro, ho già ripreso ad andare in bicicletta, faccio 30 km tutti i giorni perché sono sempre stato uno iperattivo e proprio di stare fermo non... 30 chilometri al giorno sono... Sì. Vengo a lavorare praticamente, parto da casa mia sulle colline di Tortona e tutti i giorni vengo in cantiere con la bicicletta, mezzogiorno alla mattina e alla sera torno a casa con la bicicletta. Senza, e ormai, cioè, per me è quasi un divertimento fare attività, perché mi fa sentire molto vivo, molto attivo. E il fatto di fare il giro delle coste del Mediterraneo, perché mi piace tantissimo conoscere gente nuova, conoscere... Deve essere un viaggio straordinario, Franco. Io spero di riuscirci. Si parte il prossimo anno? Adesso comincio a tappe e poi vorrei farlo quando riuscirò, perché non mi manca molto la pensione, vorrei farlo in una tirata unica. Intanto mi sto preparando il mezzo e faccio le varie tappe per vedere cosa mi serve, cosa mi potrebbe, diciamo, mancare nel viaggio, imparare magari qualche lingua che purtroppo sono un po'... Vabbè, se poi ha bisogno di un po' di inglese, ci facciamo dare un po' di ripetizioni da Shell. Posso dire, Frank, hai la cosa più importante, hai il cuore, e il coraggio e il desiderio, che è una roba straordinaria. Bravo, bravo. No, ecco. Cerco di mettercela tutta. Cerchiamo di metterci l'impegno. E l'altro Franco, che cos'è? Perché noi poi abbiamo i mercati. Io sottolineerei rapidamente due cose. È fantastico, cioè... riuscire comunque a mantenere un buon rapporto con la propria corporeità anche in presenza di deficit gravi. Cioè, il rapporto con la propria corporeità è un problema per tanti di noi. Questa è una persona a cui manca un arto e che va in bicicletta tutti i giorni. È eccezionale, è un esempio eccezionale. E non a caso, una persona capace di avere un buon rapporto con se stesso ha un progetto per incontrare gli altri. Cioè, chi è capace di star bene con se stesso a livello di corpo e a livello di spirito è qualcuno che cerca gli altri attraverso questo giro del Mediterraneo. Essere e benessere. Ci vuole un fisico bestiale per resistere agli urti della vita. Beh, un po' di fisico ci vuole per fare qualche impresa, non solamente per buttarsi dal paracadute, ma magari anche per cercare di migliorare le proprie performance sportive. Ma non serve sempre un fisico bestiale per emozionarsi e per seguire i propri interessi. Ci vuole una bella testa. Shell. Sì, ci vuole tutte e due in qualche modo, cioè ci vuole la testa che pensa che comunque bisogna avere un fisico funzionante, che bisogna essere, bisogna in questo mondo di oggi, che la fisicità è così apparentemente importante, bisogna avere l'intelligenza a capire che non è sempre necessariamente importante, quindi ci vuole una... ci vuole la spessore mentale, ci vuole i genitori che insegnano ai bambini a pensare e non solamente a giocare. Azione o meditazione? 800 24 00 24. Abbiamo Mauro che ci aspetta da Prima dei Mercati, ci chiama da Lecco. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Il mio progetto cerca di mettere insieme le due cose. Quindi io la mattina, adesso quando entrerò in vacanza fra qualche giorno, tutte le mattine praticherò Nordic Walking, che è una disciplina che ho scoperto recentemente, che è meravigliosa perché riesce a mettermi in forma abbastanza velocemente. E la sera, quindi verso il tramonto, una sessione di circa 50 minuti di yoga per poter ricentrare, no? Quindi rivedere un attimino dentro noi stessi, e quindi queste due cose insieme in armonia, credo, ho provato l'anno scorso, mi hanno dato un grande risultato, quest'anno mi ci ributto, insomma. Si ributta, Mauro fa bene perché Mauro ricerca l'equilibrio, e tante volte l'equilibrio si trova proprio mescolando con un mix di attività che sono quelle, come ci suggerisce Mauro, lo yoga alla sera, l'attività fisica, il Nordic Walking al mattino, corpo e mente, perché una l'untra e l'altra. Dottor Confalonieri. Sì, io riprenderei proprio la telefonata di Mauro e la canzone così bella di Luca Carboni. Il fisico bestiale lo interpreto nel senso che gli animali hanno un fisico assolutamente funzionale a quelle che sono le loro esigenze. E questo potrebbe essere il nostro obiettivo. Cioè ciascuno di noi dovrebbe costruirsi un fisico funzionale a quello che è il proprio progetto di vita. L'animale è costruito in funzione di quello che deve fare per sopravvivere. Ecco in che senso fisico bestiale. È un po' un'interpretazione diversa, se vogliamo, ma potrebbe essere una guida. E la scelta di Mauro è sicuramente interessante. Al mattino, momento ideale, fa Nordic Walking, che vuol dire camminare con le bacchette. Si vedevo Shell che era interessato a questo, perché no, adesso ti impostiamo, perché tu lavorerai molto quest'estate, sentirai parole che nutriranno la tua mente, perché avrete dei grandissimi ospiti, personaggi. Abbiamo, so che viene anche il grande Corrado Auges. Viene Corrado Auges, viene Claudio Bolanda, abbiamo Gerardo Colombo, Filippo Daverio, abbiamo Ennio Marchetto, i transformisti, abbiamo degli attori di teatro di una bravura esagerato, quindi però tu poi devi avere il fisico. Ma per se io perdessi 6 kg però avrei un fisico bestiale, devo insomma. Dire che tu a fisico te la cavi bene. Dottor Confalonieri mi sta guardando, sta facendo di no. No, io dico di sì, secondo me neanche 6 kg sono anche tanti. 6 kg sono il minimo necessario, credo. Allora io voglio ricordare la copertina del tuo libro Io sono immortale, dove sei nudo con una chitarra a foglia di fico. Quindi e lì a noi piacevi così, per cui stai così, non sentire lui. Esatto, andiamo da Giovanni che ci chiama da Milano, poi abbiamo Alice che ci chiama ancora da Milano. Aspetto le vostre telefonate perché oggi vogliamo fare progetti, ce li confrontiamo un po', anche progetti, lanci, obiettivi a lungo, no, per i prossimi anni. Giovanni, buongiorno. Buongiorno, complimenti per la trasmissione che io seguo sempre. Adesso quando ho sentito Shell che diceva che ci vuole l'attività fisica ma anche l'attività mentale, ho voluto intervenire perché io praticamente ho iniziato 4 anni fa che ero obeso, e a un certo punto dalla mattina alla sera mi sono messo con l'idea di tornare quello che ero una volta, e mi sono messo a camminare. Camminando ho perso 30 kg e adesso praticamente io non faccio a meno di questa attività fisica, anche perché evito di farla in palestra, roba del genere, la faccio nel verde alla sera o durante l'intervallo, perché ho scoperto che camminando comunque nel verde faccio anche una notevole attività spirituale, perché ho ritrovato, mi metto a pensare, mi metto a guardare, mi metto a camminare in mezzo al verde, ho ritrovato una serenità e un equilibrio. Poi, è un equilibrio, ecco, io dico quello, veramente è indispensabile per il mio equilibrio, nel senso che ho ritrovato il piacere delle cose semplici, ho ritrovato quello che io avevo nella prima parte della mia vita, quando io ho fatto per tanti anni il Boy Scout, e mi ricordo che ero in mezzo alla natura, ero felice, ero, come dire, avevo ritrovato dei valori, avevo trovato dei valori che avevo perso dopo. Quindi, per il Giovanni, lavoro, lei ci insegna che noi la svolta ce l'abbiamo proprio a portata di mano. Sì, non, certo, c'è, non bisogna andare tanto lontano. Il problema è che scela balestrino. Io non so, balestrino immagino che sia un po' salite e discese, salite e discese. Dovrà allenarsi un po', perché invitiamo tutti a camminare su a balestrino e perdere questi 30 kg. Già, io dopo ti chiamerò per sapere come hai fatto, perché ne avrei bisogno. Alice ci chiama da Milano, buongiorno. Buongiorno a tutti. Io volevo aggiungere un ulteriore A alle tre più una che sono già state nominate, sì, perché il mio progetto per quest'estate è creare una nuova armonia familiare, perché quest'estate inizierà una nuova avventura per due piccole famiglie, la mia e quella del mio compagno, perché andremo a vivere tutti quanti insieme per la prima volta con due bambine, quindi la mia che è piccolissima e la sua che è un pochino più grande, e la mia ricetta saranno tanto mare, perché andremo al mare, quindi tanti giochi in spiaggia. Tra l'altro l'altra bambina è francese, quindi sarà una doppia necessità di armonia anche linguistica, perché si parlano tre lingue in casa nostra. E poi sarà preparare delle cose in casa tutti insieme con le due bambine, e sicuramente qualcosa anche di culturale. Saremo in Liguria, per cui faremo dei giri. Vado a trovare Scella balestrino, esatto, che così le bambine giocano e diventano perfetto. E lei si gode anche un po' il suo compagno. Pensato a questo perché sono molto interessata al corso di teatro per i bambini, perché mia figlia, anche se è piccolina, è già abituata ad ascoltare molta musica, perché io lavoro in teatro, quindi lei è abituata. Fantastico. Allora siete tutti in famiglia. Ti aspettiamo a balestrino da lunedì 5 per una settimana. Vieni su, ci trovi. Alice, è così piccolo che ci trovi subito. Alice, fatti riconoscere, mi raccomando. Angelo, buongiorno da Napoli. Buongiorno, buongiorno. Io chiamo, ascoltavo Shelley in radio, sono in macchina, sto rientrando a Napoli e volevo ricordare che Shel Shapiro, che non è che proprio, voglio dire, per la forma fisica, mi perdonerà, ma poi dopo capirà chi sono, quindi ci riderà su. Ma la testa di Shel è davvero notevole, perché per un'attività fisica, se non proprio la corsa, c'è bisogno della testa. Shel Shapiro, vorrei ricordare a tutti che ha guidato un bus per tutta l'Australia, da Cairns dall'altra parte della costa, per circa 8.000 chilometri, e io ero nel bus con lui e lo guardavo costantemente per cercare di capire se se i suoi nervi erano così saldi da farlo. No, non ha fatto, quindi grazie e complimenti a Shell. Sono Angelo, non so se ti ricordi. Angelo, come stai? No, perché mi sa che... Angelo, 8.000 chilometri. Sì, ma Angelo aveva fatto questo viaggio. 8.000 chilometri, ad esempio. Angelo Cannavacciuolo, che ha scritto questo viaggio, questo docu-viaggio, insomma. Eravamo tutti appiccicati in questo pullman da 28 posti senza sedile. No, erano 9.000 chilometri in verità. Comunque, ma è stato meraviglioso, è stato bellissimo. Grazie Angelo, che Angelo, un abbraccio. Ci ha svelato. Ciao, quest'altra impresa di Shel Shapiro. E a proposito, hai guidato 9.000 chilometri? Sì. Beh. Essere e benessere. Dottor Confalonieri, ma vogliamo dare qualche dritta a chi è sportivo e quindi vuole continuare ad allenarsi? Naturalmente nel luogo di vacanza avrà più tempo, ma magari avrà anche dovrà fare i conti con il caldo, con degli impegni familiari, non avrà la palestra proprio sotto casa, insomma dovrà in qualche modo adattarsi. E vogliamo però anche pensare a chi, magari sentendo questa trasmissione, leggendo un po' le indicazioni anche del Daily Lab, dice: vabbè, senti, io non ho mai fatto nulla, magari inizio, mi lancio in un po' di attività fisica con gradualità, in modo moderato, in modo che magari mi piace, e poi nel ritorno a casa continuo. Bah, allora, per chi già fa l'attività, io consiglierei di dedicare l'estate a un cambio totale. Sarebbe fondamentale, cioè se durante l'anno faccio un determinato sport e non ho obiettivi agonistici, ovvio, non sto parlando di chi fa l'amatore che quindi sfrutta l'estate o per gareggiare o per incrementare l'allenamento, mm-hmm. ma da chi abitualmente va in palestra o corre o va in bicicletta per stare bene, ecco, d'estate cambiamo, c'è il tempo, c'è lo spazio, c'è la possibilità. Quindi non corri e vai in bici. Abbandonerei proprio lo sport che faccio durante l'anno e farei qualcosa di completamente diverso. Se corro, gioco a tennis piuttosto che a calcetto, piuttosto che a beach volley, la scelta è libera, che non... prendo la bicicletta, faccio qualcosa di completamente diverso. Mi serve sul piano muscolare, mi serve sul piano coordinativo. Sto meglio, vado ad allenare quelle cose che ho trascurato durante l'anno per passione o per esigenza. Quindi il consiglio è cambiamo, facciamo qualcosa di completamente nuovo. Ci troveremo molto più in forma nel nostro sport quando ricominceremo e saremo andati a toccare quelli che sono i nostri punti deboli. Per chi invece comincia, è chiaro il concetto, dobbiamo cominciare dagli sport ad impatto meno forte, quindi il cammino, il nuoto, remare, e poi dopo quando abbiamo cominciato a combinare corriamo, la bici sicuramente, facciamolo poco alla volta. Il grande vantaggio per chi comincia è che si vedono subito i risultati e quindi sfruttiamo l'estate per trovare quell'entusiasmo che poi ci porta d'inverno a dire ma in un mese sono in grado di fare quello che un mese fa non mi sognavo nemmeno di fare, sono dimagrito anche 3-4 kg, mi sento un altro, ho un altro rapporto con il mio corpo, a questo punto non mi vergogno più di confrontarmi con il mio corpo e magari decido di fare attività anche durante l'inverno. Questo è anche un po' il mio obiettivo, detto quindi, così. Di questo ci parlerà nei suoi... Trovo bellissimo questo. Ecco, cioè, sfruttiamo il fatto che anche fare molto poco, se partiamo da persone completamente inattive, all'inizio i risultati sono straordinari. Quindi troviamo l'entusiasmo che poi ci servirà d'inverno per trovare quel piccolo spazio all'interno della nostra vita quotidiana per l'attività Posso fisica. Posso fare una domanda? Sì. Dove si va a trovare questo entusiasmo? Perché spesso e volentieri è quello che non si trova. Si va facendo meno, iniziando facendo veramente poco, facendo meno di quello che siamo in grado di fare. Cioè se io parto e dico devo mettermi in forma e dico ok mi alzo alle 6:30 e vado a camminare lungo la spiaggia. No, mi alzo alle 8 e faccio mezz'oretta lungo la spiaggia. Alle 6:30 lo farò alla fine della vacanza. Oppure vado a nuotare, benissimo, vado a nuotare. Oppure semplicemente mi dedico a giocare con i miei figli, a fare la lotta, a giocare a calcio, a giocare a tennis. Ok, se penso di poterci dedicare 2 ore, ci dedico intanto mezz'ora. Alla fine dell'estate ci dedicherò 2 ore. Alla fine dell'estate io mi ritrovo con un fisico diverso. E questo è il grande vantaggio. Sto meglio con me stesso e ho trovato il coraggio per mettermi in gioco anche durante l'anno. E quindi per trovare dello spazio durante l'anno da dedicare a me stesso. Dai, Annibale ci scrive. Deve venire con me a Palestina. Te lo porti. Andare in Vespa, ci scrive Annibale. Si può considerare attività fisica? Beh, quando la metti sul cavalletto, sì. E mettila giù, e mettila su. No, io dipende cosa sta pensando. Perché secondo me andare in Vespa, se mentalmente stai passando una serie di cose che ti emozionano, è sportivo. È sportivo anche Annibale, però... No, il dottore sembra una provocazione, ma lo è fino a un certo punto, perché comunque l'emozione attiva tutta una serie di sistemi a livello neuroendocrino che sono gli stessi attivati dallo sport. Poi è chiaro che a livello cardiovascolare, respiratorio e muscolare è molto diverso andare in bicicletta dall'andare in Vespa. Ecco. Abbiamo Marco da Pistoia, ma intanto che lo saluto, io volevo ricordarvi che, e ne abbiamo parlato già tante volte anche col dottor Canfalonieri, quando ci amava e veniva sempre a trovarci. Adesso forse torna ad amarci un po'. Eh sì, certo, ci sono amori che passano e amori che tornano. Volevamo dire che ci sono, noi andiamo sempre a cercare le cose lontane, difficili, complicate, costose. Abbiamo a portata di mano, a portata di piedi le scale, e questa è un po' la battaglia che ha lanciato anche il sindaco di New York: i palazzi diventano palestra, quelli che prendono le scale. Quindi basterebbe anche per chi rimane in città e c'è la metropolitana, invece della scala mobile, prendere la scala normale, provare ad andare a due piani a piedi, anche se arriviamo al settimo piano, abitiamo al settimo piano, poi prendiamo l'ascensore, cioè sfruttare le piccole occasioni che abbiamo intorno per muoverci un po'. Marco da Pistoia, buongiorno. Buongiorno, io niente, volevo, la mia era più una domanda, una curiosità, non so neanche se siamo del tutto in tema. Io sono, vado a correre. Sai che non c'è tema oggi, perché con questi due come si fa? Io avevo fatto una scaletta, però Marco. Il discorso è questo, no? Io vado a correre almeno due volte alla settimana, se non tre con regolarità, circa un'oretta, no? E ho notato che, allora, a parte a livello mentale è incredibile perché mi dà una lucidità di pensiero, io riesco a pensare, a mettere a fuoco le cose mentre corro che in altri momenti non riesco. Il problema è che quando magari c'è qualcosa che mi fa arrabbiare, ecco, quella cosa lì me l'aumenta invece che scaricarmi, no? Perché mi rende proprio, la toglie da eventuali smussature, anzi mi tira fuori quelle che possono essere le cose peggiori. Però Marco, venga la domanda. Sì, la domanda è questa. Io ho notato che ho la muscolatura sinistra che mi cresce molto di più rispetto alla destra, la gamba, il gluteo e anche il braccio e la spalla, che correndo braccio e spalla sinceramente non è che mi... Io però sono una persona destra, non sono un mancino. Perché, dottor Confalonieri? Allora, intanto rispondiamo al nostro ascoltatore. Io farei sicuramente una valutazione della situazione a livello di colonna, quindi vado a un posturologo, vado a un ortopedico che valuti se ci sono problematiche a livello di colonna, perché evidentemente c'è un utilizzo prevalente della parte sinistra del corpo che va riequilibrato, se no in prospettiva può dare dei problemi. Rispetto alle scale, che è fondamentale, aggiungerei una piccola cosa. Scrivete tutti i giorni che fate le scale quante ne fate e a fine mese fate il calcolo di quanto avete fatto in altezza quel mese. Sarà qualcosa che vi gratificherà così tanto perché vi renderete conto che magari quasi senza accorgervi avete fatto 2-3 mila metri di altitudine solo di scalini. Vi sentirete così forti che il mese dopo cercherete di salire ancora di più, ancora di più, ancora di più, e sarà il vostro 8000 personale che vi metterà anche in salute. Ah, io non sono così competitivo. No, ma adesso è così, arrivando ai 4002 ci ributtiamo, ma adesso io voglio salutare il mio amico Andrea Ribaldone. Ciao Andrea. Ciao Nico e ciao a tutti. Vi ricordo che Andrea Ribaldone ha preparato per noi una vera e propria scuola di cucina filmata con le ricette di controsoffritto che potete trovare. Abbiamo fatto una pagina doc, per cui una delle sfide che si giocano in estate, perché abbiamo più tempo, è proprio la sfida ai fornelli, invitare degli amici. Questa è veramente una cosa molto piacevole. E allora ho chiesto ad Andrea di darci qualche suggerimento, un'idea, una ricettina, oltre a quelle che i nostri ascoltatori possono andare a vedere sulla pagina di Controsoffritto. Andrea. Allora, come hai detto tu Nico e come dicevano i tuoi ospiti oggi, è estate, fa caldo, bisogna tenersi in forma, abbiamo voglia di cambiare, d'estate magari cuciniamo un po' meno, facciamolo bene, quel poco che facciamo facciamolo bene, e la ricetta che vi offro oggi è una ricetta che viene dalla Puglia dove sto lavorando adesso. Anzi, saluto tutti i miei ragazzi qua di Borgo Ignazia, Savelletri di Fasano, e è una ricetta che loro chiamano la crudaiola. È una pasta semplice, una pasta fresca, potete usare le penne, potete usare, qua usano le orecchiette o qualsiasi tipologia, le trofie se siete in Liguria, qualsiasi tipologia di pasta sia secca che fredda, la faccio bollire, la tirate su che ancora non è cotta, la tirate su un po' al dente, la raffreddate in acqua e poi aggiungete un pesto di rucola che io lo trovo molto buono perché ha una nota amara interessante, ha una nota amara interessante che aiuta ad arricchire la pasta, quindi pesto di rucola, poi pomodoro fresco tagliato ad adolata semplicemente e qua dalla Puglia la stracciata all'interno della burrata che secondo me è veramente eccezionale. Questa la farà anche Shell? Lunedì, no, quando iniziate a fare, fatti riconoscere. Va bene. Ecco, okay, lunedì si inaugura Stars a Ballet Street. E tu alla sera fai una bella crudaiola. Farò una roba con la rucola così. Va bene? Sì. Così, la crudaiola. Così la finiamo di dire che gli inglesi cucinano male. E chi lo dice? Lo dicono, vero Andrea? Andrea, di la verità. Io per Shell ho grande ammirazione, quindi sicuramente cucinerà anche bene. No, ma lui... Andrea, bravo, è così, allora, mi piace. Dobbiamo salutarci. Un saluto ad Andrea Ribaldone, un saluto a, naturalmente, a Shell, a Franco Confallonieri, a Gianmarco Ferronati, regia la parte tecnica, Laura Vanossi. A voi che avete partecipato, abbiamo un secondo, Shell. Un abbraccio a tutti, dai. Seguitemi su Facebook, è il mio allenamento di agosto, ci ritroviamo poi ai primi di settembre a commentare quanto sarò migliorato. Se tu, noi ci troviamo domani alle 11. Essere e benessere.